Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, buonasera, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia, formazione di Palla Spicchi al completo per raccontarvi questa finale emozionante, splendida della Coppa Italia, Final Eight che si sono concluse al Forum di Assago col successo di Siena, il meno scontato, il meno annunciato, perché le pretendenti a questa Coppa non mancavano di certo, eppure la Montepaschi ce l'ha fatta ancora ed è la quinta volta consecutiva. 77-74 per Siena sulla Cimberio Varese, quindi Siena che torna decisamente e prepotentemente, semmai non lo fosse stata, anche in corsa per il campionato, perché questa vittoria pesa molto, perché contro la capolista, contro una Varese che inseguiva questo successo da 40 anni e che mai forse come quest'anno era accreditata della possibilità di farcela, no? in questo successo. Allora, però andiamo subito ad Assago per sentire le voci dei nostri corrispondenti e dei protagonisti, subito da Roberto Nardella. Ben trovato Roberto, raccontaci un po' questo successo di Siena. E allora, siamo in compagnia di Daniel Hackett in diretta per 24. Daniel, MVP della manifestazione, avete vinto 77-74, un tuo giudizio sulla partita e soprattutto sulla tua gara? È una vittoria speciale per Siena, per tutta la città e per un gruppo che ha iniziato un ciclo nuovo. La squadra è stata spettacolare in questi tre giorni a battagliare, a dare il cuore, quindi è un risultato per tutto lo spogliatoio importante. Tu prima parlavi anche di una dedica speciale a Lechtaler, siete un gruppo nuovo, però un gruppo già unito, e ti pregherei di spiegare poi agli ascoltatori per quale motivo questa dedica a Lechtaler. Luca ha perso il papà nei giorni scorsi e comunque ha voluto restare con noi, è stato un gesto speciale e sapevamo di dover dare qualcosa in più anche per lui, quindi è una vittoria per Luca, condoglianza alla sua famiglia. Quei ragazzi hanno veramente dato tutto in questi tre giorni e per Siena, in un momento particolare per la città, portare a casa la quinta Coppa Italia in non so 5 anni è veramente speciale. E allora ringraziamo Daniel Hackett, lo concediamo, vi ridiamo la linea allo studio per qualche istante, dovremmo avere tra pochi minuti il coach di Siena Banchi che sta terminando la conferenza stampa qui nella sala stampa del Forum di Assago. Benissimo, benissimo Roberto, allora appena arriva coach Banchi faccio un fischio che andiamo subito in onda. Intanto uno sguardo rapidissimo al tabellino per quanto riguarda Siena. Beh, diciamo Hackett decisivo con i suoi 17 punti e soprattutto con una tripla che nel finale ha sbloccato quell'attacco senese che pure ha prodotto un parziale da KO all'inizio 18-0, pensate, dopo pochi minuti, dopo poco più della metà del primo quarto, e partita che sembrava già in ghiaccio, ma inevitabilmente direi Varese è tornata progressivamente in partita fino al testa a testa finale. 17 punti per Hackett, 25 in 24 minuti per Bobby Brown, con 2 su 7 da 2, 5 su 7 da 3 punti, 5 palle perse, 2 recuperi e 4 assist per un 21 di valutazione. Poi 10 punti per Matt Jennings in 26 minuti, 3 su 3 da 2, 1 su 2 da 3 punti, 1 su 1 ai liberi, 4 rimbalzi, anche 3 assist. Un Jennings che è stato prezioso soprattutto all'inizio in questo parziale che vi stavo descrivendo, proprio per mettere parecchia distanza, parecchia separazione dall'imbarcazione varesina. A proposito di Varese, andiamo subito da Carmelo Prestisimone, sempre al Forum, che ci racconta questa debacle iniziale della capolista e poi questa rimonta che a momenti Carmelo arrivava veramente a rimettere in gioco una coppa che dopo 5-6 minuti sembrava già assegnata. Assolutamente Dario, dici bene, perché Varese poi si è riaccostata negli ultimi minuti, negli ultimissimi minuti, negli ultimi 4 minuti sul meno 4, sospinta da questo Mike Green davvero monumentale, leader autentico di questa squadra. 29 punti alla fine per il play americano, con 6 su 11 da 2, 3 su 5 da 3, 4 assist, 29 di valutazione finale. Però poi il suo diretto dirimpettaio Bobby Brown ha risposto per le rime e ha ricacciato indietro i varesini. I varesini che naturalmente, come è possibile immaginare, sono molto delusi, rammaricati, sono andati via già da una decina di minuti qui dal forum di Assago. Noi abbiamo registrato anche un'intervista ad Achille Polonara. Piano piano arriva, che qua la mail c'ha un passo, sarà il maltempo che frena le reti. Senti, a proposito di Varesini, sì, parliamo di altri assenti, sono quelli che sono stati anche in campo, però, nel senso che, almeno a vedere il tabellino, a vedere un po' di partita, Ere 7 punti, Rush 4 punti, lo stesso Polonara 5 con 2 su 5 da 2, Sakota che aveva spaccato in 4 la difesa di Roma non si è ripetuto neppure minimamente a quei livelli, 3 punti in 14 minuti, 1 su 4 nelle triple. Insomma, l'impressione che si ha è che il primo esame da grande, soprattutto in un'ottica playoff dove gli scontri diretti peseranno e come, no? gli scontri da vincere a tutti i costi, sia stato mancato da Varese malgrado la rimonta. Tu che impressione ne hai ricavato, Carmelo? Dario, sono perfettamente d'accordo con te. Hai inquadrato la partita di Varese con grande precisione, perché Dusan Sakota, che è stato l'eroe della semifinale con quel 7 su 9 dal campo, ha steccato alla grandissima. Non è partito in quintetto, poi Vitucci gli ha dato qualche minuto, lui non ha fatto bene, ha combinato ben poco ed è tornato in panca. Banks ha steccato alla grandissima, ha fallito una grandissima occasione, così come anche Rush, grande atletismo. Senti, Carmelo, sì, ti chiedo un time out perché Roberto Nardella è con Luca Banchi e allora spazio inevitabilmente al l'allenatore vincitore di questa Coppa Italia. Carmelo, rimani là però, Allora, riprendiamo la linea qui dal forum di Assago, siamo con coach Luca Banchi. Coach, vittoria, quinta Coppa Italia vinta consecutivamente, magari lo saprai già, anzi sicuramente il Fenerbahce ha vinto la Coppa in Turchia, diciamo che fa da trade union questa vostra vittoria odierna. Eh sì, il filo Siena Istanbul non si spezza, quindi niente, idealmente un saluto, un abbraccio a Simone e Luca che tengono alto l'onore italiano fuori dai nostri confini, quindi sicuramente il loro un grandissimo traguardo, un grandissimo obiettivo come il nostro. Onestamente pochi si sarebbero immaginati che Siena potesse essere ancora una volta qui stasera a festeggiare, a celebrare un successo molto meritato, ottenuto con una forse inattesa anche autorevolezza, cioè il modo in cui abbiamo approcciato la gara, il modo in cui l'abbiamo controllata per larghi tratti, salvo poi subire la feroce rimonta di Varese, però considerato cosa c'è alle spalle, 3 partite molto intense, dure, giocate a tutti gli effetti in trasferta, stasera era una cornice stupenda di pubblico varesino con i senesi a combattere strenuamente il proprio spicchio di tribuna, è un'impresa, e tale l'ho definita, penso che siate d'accordo nel riconoscerlo. Coach Vitucci in sala stampa ti ha dato l'onore delle armi appena la tua squadra e ha detto che forse siete ancora la squadra da battere. Beh, sarebbe bello, in realtà per vincere occorre tanto lavoro ancora, abbiamo una concorrenza spietata, è stato importante farsi trovare pronti a questo appuntamento, considerato le tante difficoltà che c'erano, ho temuto che non potessimo avere né la condizione fisica né la salute per riuscire a giocare partite di questa intensità, invece questi ragazzi sono stati sorprendenti, merito, onore a Varese che sta giocando una stagione pazzesca e stasera è andata veramente molto vicina da raggiungere un risultato incredibile, però ha trovato davanti una squadra altrettanto determinante. E allora ringraziamo Roberto, proviamo a fare un'altra domanda al coach, se ha in qualche modo paura che questo ciclo straordinario di Siena possa finire alla luce di quelle che sono le turbulenze che stanno toccando in questo periodo il main sponsor senese. Vi faccio ascoltare quello che sta raccontando ai colleghi perché l'abbiamo rapito in diretta in conferenza stampa. E quindi averlo fatto in questa cornice, in questo ambiente, in questo scenario qua pazzesco, con una squadra che ha giocato una buonissima pallacanestro e che ha saputo supplire anche alle tante difficoltà che abbiamo avuto prima, durante la manifestazione, ma ne siamo sempre venuti a capo egregiamente. Palla Spicchi. E allora torniamo al forum d'Assago per raccontarvi questo splendido successo di Siena, 77-74, e Siena che conquista per la quinta volta consecutiva la Coppa Italia. Era rimasto sospeso il discorso con Carmelo Presti Simone prima dell'intervento in diretta di coach Luca Banchi al microfono di Roberto Nardella. Carmelo, dicevamo che molti dei big di Varese hanno bucato proprio la partita più importante, no? Assolutamente, chiamiamoli ectoplasmi, va, insomma, sul parquet, perché effettivamente non è che ci vai leggero, eh. No, non ci vado leggero, però insomma è un dato di fatto, è un dato di fatto, Dario, perché giocatori importanti, insomma, di assoluto talento come Banks, come Rush, i due americani, ma lo stesso Sakota, che come dicevamo è stato l'eroe della semifinale, questo giocatore serbo che ha infilato 7 su 9 dal campo nella semifinale, hanno steccato, ma anche sotto canestro c'è stato ben poco, perché Tals ha fatto un gran lavoro, come dire, di a livello di sportellate, di movimenti e via dicendo, però ha combinato ben poco, perché andiamo a vedere lo scout, 4 punti solamente, quindi insomma ha dato poco in termini proprio di offensivi. De Nicolao sul perimetro ha messo brio, ha cambiato marcia all'inizio quando c'è stato questo parzialone di 18-0 che avrebbe messo KO anche i Los Angeles Lakers. Però, soprattutto insomma, quelli di quest'anno. Soprattutto quelli di quest'anno, sì, forse menzioniamo qualche altra squadra, dai, diciamo Miami. Però, insomma, Heat, esatto, insomma, va, ecco, esatto, diciamo, hai ragione. Quantomeno si è avuto sicuramente uno dei meriti della Varese di questa sera è stata quella di crederci fino alla fine, di dimostrarsi comunque grande, e sicuramente sarà protagonista fino alla fine della stagione. Allora, intanto grazie dal Forum d'Assago a Carmelo Presti Simone. Prendiamo un attimo di fiato, vi do i risultati della Lega 2, terza giornata di ritorno: Ferentino Trieste 86-73, Capo d'Orlando Casale Monferrato 94-81, vittoria per l'Upea di Pozzecco 77-81 tra Forlì e Barcellona, Brescia batte Scafati 82-72, Trento Veroli 68-57, Bologna Iesi 90-62, 64-67 tra Verona e Pistoia, riposava Imola. Questi risultati della Lega 2. Carlo Genta, ben trovato dal forum. Ciao Dario, buonasera a tutti. Allora Carlo, aiutaci un po' a individuare il sugo di tutta la storia. Che cosa lascia al campionato questa vittoria di Siena? Ma sai, siamo talmente abituati a vedere vincere Siena che quasi non fa più notizie. Io credo che il senso sia stato l'approccio alla partita. Io non ho mai visto una finale secca iniziare in quella maniera, 18-0. E è chiaro che Siena ne porta tante nel DNA, anche se sono cambiati un po' di giocatori di finale per di finali per Varese era l'inizio, era la prima, ha pagato probabilmente la stanchezza delle altre due partite, anche perché è molto più corta di Varese. Ha pagato un giocatore che doveva essere comunque la prima punta di Varese, che è Biere, che è stato secondo me nocivo comunque per la squadra. Mm. Alla fine questa rimonta tutta di cuore, ma insomma, troppo più forte, più lunga, più profonda, più esperta Siena in partite di questo tipo, quindi direi una finale che non ha avuto tantissima storia, nonostante il risultato alla fine sia onorevole. Assolutamente per sì. E tra l'altro possiamo parlare di un'onorevole sconfitta, ma non tanto di più, insomma. E tra l'altro ci ritroviamo un Daniel Hackett che forse con questo premio da MVP pienamente meritato, e con 3 prestazioni monstre, è un acquisto a questo livello essenziale per la nazionale, no? Perché ma non c'è dubbio, ha fatto il canestro più importante della partita, quel canestro da 3 punti quando Varese stava buttando tutto nella rimonta. Hackett è un giocatore ormai molto solido, è un giocatore che tiene in mano uno squadrone come Siena, è un giocatore affidabile, è un giocatore che aveva bisogno di giocare a questi livelli per consacrarsi definitivamente, per essere davvero utile per traguardi più importanti anche in chiave azzurra, quindi si sta confermando giocatore di assoluto livello, giocatore in grado di prendere tiri molto difficili, è un giocatore che è cresciuto enormemente dal punto di vista della personalità, Dario. Assolutamente d'accordo, Carlo, e staremo a vedere quanto peserà questa esperienza e poi tutto il campionato e l'Euroliga anche negli europei del prossimo settembre in Slovenia. Appuntamento da non mancare, così come da non mancare domani l'appuntamento con Carlo Genta e tutti i convocati. Ore 14, neve o non neve, tutti i convocati c'è, e quindi ti aspettiamo, Carlo. A domani, Dario, grazie a tutti. Ciao. Grazie a Carlo Genta, domani alle 14 tutti convocati. Gran chiusura col professor Flavio Tranquillo. Ben trovato, Flavio. Buonasera. Beh, e allora Flavio, questa volta in pochi, intanto l'Inter è in vantaggio, informazioni per i calciofili, ha segnato con un gol rocambolesco Cassano. Beh, dicevamo Flavio, stavolta più di uno avevano scommesso che Siena avrebbe potuto abdicare e invece eccolo ancora là sul trono, pienamente meritato. Il gusto di questa vittoria, il senso di questo successo? Ma il senso di questo successo è una squadra che ha la vittoria come abitudine, ha la capacità di giocare queste partite, si è trovata contro squadre che non hanno questa capacità, quelle che sono state le competitor di Siena avevano magari anche la possibilità tecnica di giocarsi la partita, ma non avevano la stessa abitudine, basti in maniera abbaccinante Sassari avanti di 13 o i primi 5 minuti di Varese oggi. D'altronde è un'abitudine che si matura con il tempo. Mi è venuta in mente la finale di Coppa Italia che Verona vinse con la Milano di Mike D'Antoni, il primissimo anno di Mike D'Antoni allenatore, una squadra che andava come questa Varese, poi la prima volta con qualcosa da perdere o da vincere non riuscì a giocare, semiparalizzati. L'esempio è calzante, direi. E domattina come si sveglierà Varese? Ma io penso che si sveglierà con tristezza, ma una tristezza che potrei definire salutare per certi versi. La squadra in riva, come dimostra la rimonta, ha secondo me dei limiti nella metà campo difensiva, e perché il 18-0 è molto più secondo me preoccupante sul lato del 18 che sul lato dello 0. Sa che deve crescere lì è una cosa che è possibile anche solo partendo dalla volontà e dalla voglia di farlo. È più difficile crescere in attacco, mentre in difesa, se tu hai voglia e magari con lo sprone di questa sconfitta, può essere che ne facciano tesoro. Le altre novità che si sono viste in queste final eight, ho visto una pallacanestro di buon livello, divertente e anche spumeggiante, come hanno messo in campo Sassari e Brindisi ad esempio. Cosa rimane al campionato da questa rassegna milanese? Spumeggiante Sassari e Brindisi, sì, altre partite meno spumeggianti, in generale troppo più attacco che difesa e troppo attacco standardizzato rispetto alla possibilità di sviluppare un'identità di gioco. Però il dato positivo è che ci sono molte squadre che possono battere molte altre squadre. Direi che in attesa che cambi il livello e cambi la stabilità e cambi l'entusiasmo attorno al campionato italiano, bisogna accontentarsi di quello. Beh, quantomeno accontentiamoci dell'equilibrio che fa a volte uno spettacolo magari meno gradito ai palati fini, ma più popolare, no? E quindi magari più apprezzato, speriamo, dal sottobosco dei tifosi del basket. Grazie Flavio, ci ritroviamo domenica col campionato, Saluti! Grazie a Flavio Tranquillo, grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia e anche a Roberto Nardella e Carmelo Prestisimone che ci hanno riportato le voci dei protagonisti in diretta di questa splendida vittoria di Siena su Varese 77-74, e Siena che si conferma regina di Coppa, quinta Coppa Italia consecutiva per i toscani. Grazie a tutti, io però rimango a farvi un po' di compagnia con lo sport della domenica sera di Radio 24.